Le 14 in punto. Giovedì 8 ottobre del 2009, questa è Radio Onda Rossa 87900, la modulazione di frequenza. Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni potete consultare il sito della radio www.ondarossa.info, dove troverete il link per riascoltare la puntata precedente e poi vedere gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, link per vedere interviste e recensioni e poi i film sul piccolo schermo per quanto riguarda la settimana televisiva. Cominciamo subito con i nostri ospiti. Eccoci con Giuseppe Capotondi, regista della Doppia Ora. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Come stai? Bene, bene. Allora, io il film l'ho visto ieri, ti faccio i miei complimenti. Ah, grazie mille. Uscirà nelle sale domani. Sì, domani. In quante speriamo copie? Bene. 250, dicono. Parecchie. Insomma. Allora, una cosa che volevo dirti subito rispetto al film, che a me sembra, intanto mi sembra un buon thriller come non se ne vedono di italiani in genere. Grazie. E poi mi sembra più in generale una riflessione sulla coppia e sul rapporto di fiducia all'interno di una coppia. Non so se è una mia impressione o è quello che avevi voglia di comunicare. Sì, no, in effetti è proprio quello che volevamo raccontare, insomma, una specie di riflessione sulla capacità di agguantare una seconda occasione quando ci viene, quando ci viene presentata, e sul perdono soprattutto, sul perdonare gli altri e sul perdonare se stessi. Mm-hmm. Alla fine a volte è più facile perdonare gli altri o un'altra persona che ci fa del male piuttosto che quella stessa persona perdoni se stessa, insomma, per averci fatto del male. Ho capito. Senti, per chi c'è all'ascolto, chiaramente, descrivilo, raccontalo in breve. Ma sì, racconta di un incontro di due solitudini, di due persone con un passato, insomma, abbastanza complicato, che si incontrano per caso ad una serata speed date, cominciano ad innamorarsi finché non succede un fatto di sangue che cambia la loro vita, insomma, per sempre, e questi sono solo i primi 15 minuti del film. Poi in realtà tutto il resto è una serie di colpi di scena e di capovolgimenti dove insomma nessuno è più quello che sembrava. E fino ad un finale, insomma, che non voglio adesso svelare, certo, perché ovviamente è inutile dire l'assassino, ma non è il maggiordomo. Cioè, non è il maggiordomo. Non è il maggiordomo. Giuseppe, come nasce il progetto? Il progetto nasce da un soggetto scritto da tre ragazzi, anche loro la loro prima esperienza, e da un innamoramento per questo soggetto da parte di Nicola Giuliano e Francesca Cima da Indico Film, che poi hanno, insomma, sono riusciti a mettere insieme questo film abbastanza in tempi record, coinvolgendomi. E insomma alla fine siamo qua, speriamo che insomma, la gente lo vada a vedere, almeno non abbiamo fatto per niente. Senti, il coinvolgimento di Filippo Timi, che da queste parti apprezziamo particolarmente, abbiamo avuto anche ospite. Anche da queste parti. Raccontaci un Filippo, po'. Beh sì, subito, insomma, da quando ho letto le prime paginette, insomma, del soggetto, ho sempre l'ho avuto in mente lui come guido, mm-hmm. ma anche Xenia Rapoport come Sony, insomma, quindi devo dire che ho avuto la fortuna poi che anche loro si innamorassero di questo progetto e partecipassero. Sai, avere due attori così bravi, anzi direi fra i più bravi che ci sono nel nostro panorama, per un regista all'opera prima è una fortuna incredibile, insomma, mi hanno aiutato moltissimo. Mm-hmm. Senti, tu che esperienza hai alle spalle, visto che questo è il tuo esordio nel lungometraggio di finzione? Ma io ho tipo una carriera di 15 anni come regista di pubblicità e di video musicali. Ho capito. Insomma, vengo da lì. Senti, mi racconti, mi spieghi un po' meglio questo concetto che esprimevi sul perdono, ossia è più facile per una persona perdonarne un'altra che quella persona perdoni se stessa. Ma sì, perché in effetti alla fine far del male penso che sia molto più difficile, cioè è facile far del male ma è difficile poi perdonarsi per aver fatto del male mm-hmm. ad un'altra persona. Non succede sempre, ovviamente, immagino che, insomma, che ci siano killer professionisti che poi non è che si autoflagellino la sera davanti, no? Però per una persona normale, con una sensibilità normale e insomma un cuore, alla fine far del male fa più male che riceverne. Bene, allora Giuseppe, io ti dico in bocca al lupo, ti rinnovo i complimenti per il film e speriamo che vada bene. Speriamo. Andate al cinema, mi raccomando. Sì. Un abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. E questo era Giuseppe Capotondi, regista del film La doppia ora, da domani in sala. Con noi Daniele Cini, regista del documentario Noi che siamo ancora vive. Pronto, buon pomeriggio. Pronto, salve, buon pomeriggio a voi. Allora, ci siamo conosciuti al Salina Doc Fest, dove hai ricevuto più di un premio. Ne ho ricevuti addirittura tre, è stato abbastanza emozionante. Senti, allora, devo anche confessare che io non ho avuto modo di vederlo. Ma te lo farò arrivare. Oh, che bello. Però ero molto curioso. Raccontaci un po' intanto il tema del documentario per chi è all'ascolto, chiaramente. Certo. Beh, guarda, il tema parla di tre generazioni di donne che hanno attraversato tutte, insomma, tre le generazioni, la tragedia della dittatura argentina, la desaparición della storia. Le madri che hanno perso i loro figli, le donne che sono sopravvissute a dei campi di sterminio, insomma, dei centri clandestini della dittatura argentina, e le figlie delle donne desaparecide che sono nate nei centri clandestini, che sono state affidate a famiglie di militari. Mm-hmm. Quindi tutte queste tre generazioni si ritrovano in un processo che si è svolto a Roma dal 2006 al 2007, in cui sono stati giudicati in militari argentini per la scomparsa di alcuni desaparecidos di origine italiana. Mm-hmm. E il processo, insomma, è la cornice di questa storia di donne. Il tuo interesse per questa storia nasce proprio dal processo romano? Sì, e io no, devo dire che avevo già fatto altri documentari su questo tema, avevo fatto la storia per esempio del console Calamai per la trasmissione di Minoli, La storia siamo noi, che è un console che è riuscito a salvare un sacco di persone, una specie di Perlasca però dell'epoca della dittatura argentina. Poi avevo fatto un documentario sui rapporti fra l'Italia e l'Argentina, soprattutto nel periodo del golpe. Ma è un tema che mi ha molto preso anche per una questione generazionale. Io sono della stessa generazione dei ragazzi che facevano politica in quell'epoca, abbiamo, non so, mi ritrovo molto nelle stesse letture, stessa musica, la stessa diciamo storia anche di impegno politico, e purtroppo loro hanno avuto una situazione molto più disgraziata di quella che ho avuto io. Tra l'altro gli italo-argentini coinvolti nelle sparizioni sono qualche centinaio. Diverse centinaia, ma sai, in Argentina è anche difficile calcolarlo, perché visto che gli italiani sono, la gente di origine italiana sono il 40%, probabilmente sono molti più che centinaia, però diciamo quelli proprio con la nazionalità italiana sono quelli per cui si fanno i giudizi qui. Tra l'altro approfitto per dirti che si è riaperto un altro processo a Roma, questa volta contro Massera, che è uno dei tre capi della giunta militare, uno dei più carogna, e che tra l'altro era un membro della loggia P2 del nostro Gelli. Tutto torna poi alla fine. Tutto torna, tutti sempre amici tra di loro, come Corona, Lelemora, tutti questi. Tutti compagni di merende. Sono tutti compagni di merende. E vabbè, comunque questo militare ha campato per diversi anni un'infermità mentale, poi invece una perizia di un psichiatra italiano nominato dalla parte civile, dal tribunale, ha dimostrato che questa insanità mentale era fasulla, e quindi è cominciato il processo proprio la settimana scorsa. Oh, Daniele, in contumacia, chiaramente. Senti Daniele, come ti sei mosso per raccogliere materiale, come ti sei documentato, raccontaci un po'. Mi sono documentato perché sono entrato all'interno del processo, a parte che mi ero documentato con i documentari precedenti, quindi avevo avuto informazioni da storici, giornalisti, di testimoni di vario tipo a questo processo, grazie a Jorge Turburo che l'ha in qualche modo organizzato, e l'associazione naturalmente delle nonne di Piazza di Maggio e i vari organismi umanitari. Ho partecipato a tutte le sedute, e quindi in qualche modo ho avuto accesso anche agli atti del processo. Questa era diciamo la base fondamentale per raccontare il documentario. Poi i fatti storici li conoscevo già prima, tanto che il mio documentario Seconda Patria, quello che avevo fatto per History Channel, è stato proiettato due o tre volte all'interno del processo come elemento di informazione dei giurati, cioè è stato preso come un elemento per informare la giuria, insomma. Oh Daniele, immagino che anche per i tuoi lavori precedenti tu ti sia recato più volte in Argentina, e volevo sapere che situazione rispetto alla memoria storica hai trovato. Beh, adesso c'è stato un periodo particolare, perché dopo 25 anni in cui praticamente c'era stata un po' una rimozione di questo periodo atroce, negli ultimi anni invece sono state intanto abolite le leggi che perdonavano, assolvevano, amnistiavano tutti questi militari che non si sono fatti praticamente neanche un anno di galera, e quindi si sono riaperti i processi, che è importante non tanto per l'aspetto della punizione, perché queste poi sono tutte persone molto anziane o addirittura molti morti, ma per l'aspetto della memoria storica. Ma soprattutto si è ricreato nella società argentina di nuovo una consapevolezza di quello che è successo in quegli anni, e che è una cosa che poi è importante per tutta l'umanità, non solo per loro. Sono state trasformate le caserme in musei, sono iniziati appunto a nascere, circolare un sacco di film, di documentari, una cosa che negli ultimi anni proprio i giovani anche argentini non ne sapevano più niente. Era completamente mantenuti nell'oblio, una cosa di cui non vogliono parlare, perché in fondo la società argentina un po' si vergogna di essere stata complice, no? Come è capitata in Germania. Infatti mi veniva in mente, ho visto recentemente il film di Kramer di nuovo, cioè ho rivisto Vincitori e Vinti, e tutto il processo in Norimberga, ecco, quello è un esempio secondo me. Se ne parlava tra l'altro a Salina, perché fare i processi e non fare come in Sudafrica dei tribunali della memoria? E invece l'Argentina secondo me ha bisogno proprio di processi per cercare di ristabilire questa memoria che è stata cancellata. Sì. Al di là delle condanne, ma c'è bisogno proprio di che queste cose vengano celebrate in sede giudiziaria. Oh, Daniele, dalla parte italiana c'è stata altrettanta reticenza negli anni passati. A quanto ne so io, per quanto mi sono informato, insomma, per esempio il processo è stato, c'è stata una forte spinta dell'allora presidente Pertini perché si facesse luce su queste sparizioni. Sì, Pertini si deve molto da fare. Negli anni 80 fu il primo presidente, credo, insomma, almeno occidentale, che c'erano ancora i militari quando Pertini è stato eletto e ha appoggiato subito le madri, insomma. E poi c'è stato questo primo processo in Italia nel 2000 che si è concluso con una condanna all'ergastolo di tutti i responsabili della sparizione di... E questo è il secondo, invece, questo qui di cui parlo io. Però non mi sembra ci sia stata una grossa attenzione, o sbaglio? No, non c'è stata una grossa attenzione dei media, a dire la verità. C'è stato un pochino di visibilità perché c'era allora il governo Prodi, il Ministero degli Esteri ha dato un po' il suo patrocinio, c'era il sottosegretario Danieli, però insomma non è che c'è stata una grande visibilità, tant'è vero che tutte le volte che io faccio vedere questo documentario, nonostante che poi ci sia passata un'altra versione del documentario in televisione al Doc 3, un programma di Rai 3, devo dire alle 2 di notte, per cui non è che c'era stata anche chi l'ha visto che aveva seguito il processo, però ogni volta io lo mostro, tutta la gente che lo vede è come se lo sentisse per la prima volta. Questo da una parte mi dà la sensazione che su queste cose se ne sa ancora poco, dall'altra naturalmente sento che il mio documentario è anche necessario. Senti, a proposito, un'eventuale distribuzione, e poi se c'è anche un tuo sito dove è possibile saperne di più. Veramente il sito non ce l'ho, perché tutto questo l'ho autoprodotto naturalmente, con poi ho avuto le vendite alla RAI, ho avuto un contributo del Ministero, però ho fatto tutto da solo, non ho neanche una segretaria, quindi io non sono proprio capace di fare un sito. Però insomma, chi mi scrive al mio indirizzo mail gli posso dare tutte le informazioni. Poi un po' ne parla il sito www.24marzo.it, che è il sito che ha seguito il processo. Okay. Questo è un sito molto informato, è quello che ha fatto Jorge Turburu, che è appunto l'organizzatore del processo, e forse vale la pena prendere informazioni su quel sito lì. Ed eventuali passaggi prossimi televisivi, se non addirittura una distribuzione in sala? Ma non lo so, adesso sono in contatto con qualche distribuzione. Tra l'altro, uno dei premi di Salina è stata la distribuzione di Documè, che è questa rete di documentari piemontesi. Ne abbiamo parlato anche in trasmissione più volte. Sono molto bravi questi ragazzi, e poi lo distribuiscono in vari cinema del Piemonte e della Sardegna. Poi ho altri contatti qui a Roma e vediamo un po' come si sviluppano. Eventualmente ci terremo in contatto. Sì, sarò il contatto mio, che sono su Facebook, eventualmente. Bene, allora io ti saluto dicendoti anche che noi, per esempio, facciamo anche, passando da un discorso all'altro, anche teatro qui in radio, e abbiamo fatto per esempio uno spettacolo tempo fa, Tango, sulla... La conosco bene. Sì, con Rolando Ravello. E il prossimo spettacolo anche, ce ne sarà un altro che riguarderà la dittatura argentina e Desaparecidos, e sarà il 3 novembre con Le figurine mancanti del 1978. Questo è il titolo dello spettacolo. Sì. Bene, allora, quindi siamo sensibili. Questo non lo conosco. Va bene. Il tango è bellissimo, l'ha fatto Francesca Zanni, che ha lavorato con me in un corto, sempre su questo tema che abbiamo fatto per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo fatto un film collettivo in cui noi abbiamo scritto, insieme a Francesca, e io poi ho fatto la regia, uno di questi episodi che abbiamo proiettato ieri a Sociologia. Vedi, come tutto torna anche dall'altra parte, dalla parte buona. Bene. Va bene, Daniele, allora un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao. Daniele Cini, regista del documentario Noi che siamo ancora vive. Passiamo ad altro per parlare invece di festival. Siamo in collegamento con Mario Mazzetti, segretario nazionale della FICE, per parlare con lui della nona edizione degli incontri del cinema d'essai a Mantova dal 6 a 8 ottobre, quindi oggi ultimo giorno. Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio. Come va? Bene, siamo un po' stanchi dopo il terzo giorno, ma ci avviamo alla conclusione con buoni numeri di frequenza e anche una serie di film che tutto sommato altamente consigliabili, insomma. Allora, cominciamo con, per chi ci ascolta, parlando, descrivendo un po' questi incontri del cinema d'essai, di cosa si tratta e come si svolgono. Sono da 9 anni l'incontro, diciamo, della produzione cinema per quanto riguarda la specializzazione, insomma, del prodotto di qualità. Si sono svolti 6 anni a Ravenna, poi siamo andati ad Asti, adesso per la prima volta siamo a Mantova. E sì. Sono circa 400 tra esercenti, distributori, produttori, autori e giornalisti che assistono a proiezioni di anteprime, guardano listini e trailer dei film d'essai che vedremo nei mesi successivi, ci sono dibattiti, tavole rotonde e anche i premi che la FICE assegna ogni anno. Senti, cosa è emerso di interessante in questa edizione? Ma dal punto di vista, diciamo, seminari, tavole rotonde, ci si interroga un po', tanto per parafrasare il titolo di un incontro di ieri, sul ruolo e identità dei cinema d'essai, nel senso che sì, è cambiato il mercato, è cambiata la tipologia di offerta cinematografica, la concorrenza di altre forme, insomma, di consumo non solo del tempo libero ma in generale proprio di cinema, e quindi i sopravvissuti o comunque quelli che hanno sempre tanta voglia di fare, di rilanciare la propria attività investendo e proponendo comunque qualità, si sono anche un po' interrogati sul loro futuro, insomma. Mm-hmm. Diciamo a tinte variabili, un po' fosche, un po' più rose, comunque diciamo che poi è chiaro che anche l'offerta che insomma che arriva dai festival, che riesce ad arrivare in un mercato un po' asfittico come quello italiano, dove si compra meno, le televisioni non trasmettono e quindi insomma anche le stesse distribuzioni specializzate un po' cambiano pelle. Mm-hmm. E quindi insomma è sempre più difficile trovare poi spazi sul mercato. Diciamo che noi stiamo per vedere oggi pomeriggio un film giapponese che ha vinto l'Oscar quest'anno come miglior film straniero, si chiama Departures, ed è grazie allo sforzo di un gruppo di Udine, insomma legati un po' al Cinema Zero, un po' al Paris Film Festival, di Udine, che questo film riesce ad arrivare sul mercato italiano, mentre invece altre realtà, come dire, ripiegano su prodotti un po' più commerciali. Mm-hmm. Capito. Senti, continua. No, parallelamente il cinema italiano per fortuna vive, anche se con risultati altalenanti sul mercato, però comunque vive anche una fase di grande attenzione da parte del pubblico. Quest'anno sono mancati film come Gomorra e Il Divo, però ecco, ci sono tanti prodotti stimolanti, sta per uscire il film di Francesca Comencini con La Bui, che è stato molto apprezzato a Venezia, lo Spazio Bianco. Abbiamo appena visto, grazie alla Lucky Red, le primissime immagini di un film che è già controverso, come dire, non per motivi cinematografici, che è La Prima Linea, che Renato De Maria, tratto dalla biografia di Sergio Seggio, film che ha avuto dei contributi statali, ma che allo stesso tempo con una serie di condizioni, diciamo, di una sorta di visione della copia campione prima di procedere, tant'è vero che, con i contributi intendo, tant'è vero che è andato a Toronto, ma il distributore, il produttore Andreotti Pinti non l'ha portato in nessun festival italiano. Abbiamo anche visto le prime immagini del nuovo film con Tony Servillo di Stefano Incerti. Insomma, un'offerta molto variegata. Quello che volevo chiederti è che, rispetto a questa situazione non rosea, le sale d'essai in qualche modo hanno anche avviato una politica comune di azione? Ma l'intento sarebbe quello, nel senso che da un lato poi, insomma, anche lo stesso settore d'essai va dai grandi circuiti come Circuito Cinema, che programma sale in tutta Italia, alle piccole sale di paese, di provincia, che comunque, insomma, dove spesso poi ci sono le realtà più attive. E l'idea è quella comunque sì di fare una sorta di massa comune anche attraverso iniziative come quella che in realtà l'ANEC, più quella FICE, quindi l'intera associazione degli esercenti, che comunque di cui fa parte la FICE, e vuole intraprendere già a novembre con una giornata comune, un focus di dibattito e di proposta che si sta organizzando per Milano. Per il resto sono occasioni come questa di Mantova che servono anche un po', insomma, a unire, insomma, i vari puntini che sono queste centinaia di sale d'essai su tutto il territorio, convogliando lo Stato attraverso il Ministero, Direzione Generale Cinema, le regioni, insomma, ecco, anche istituzioni, il governo del territorio, per cercare di andare avanti. Oh, un paio di stimoli che mi vengono in mente e vorrei sapere cosa ne pensi tu sono sia la rete che il sistema delle sale digitali. Tu come la vedi in proposito? Ma dunque, parlando di rete, mi viene in mente innanzitutto promozione, modalità promozionali che non sono i soliti artistici e brevissimi trailer piuttosto la carta stampata, diciamo che per carità è sempre utilissima, però magari si cerca anche un po' di inseguire un pubblico che è in costante evoluzione, quindi diciamo che c'è stato anche qui un seminario con una presentazione di un'indagine che ha svolto la Bocconi, che in realtà è relativa al progetto Schermi di Qualità, che incentiva il cinema di qualità italiano ed europeo, ma che comunque, insomma, parlava proprio di questo, insomma, dal passaparola a un po' alle nuove invece tecnologie, che, insomma, per arrivare al pubblico, insomma, cercando un po' di adeguarsi. Per quanto riguarda il digitale, la spinta di questi ultimi mesi naturalmente parte da Hollywood e dal 3D. Però indubbiamente ci si interroga molto, e qui in questo caso tornano molto utili le regioni, perché ad esempio in Lombardia, in Toscana, nel Lazio stanno partendo bandi per la transizione alla tecnologia digitale anche nelle sale, e laddove non arrivano naturalmente i dollari o comunque, insomma, diciamo, l'offerta di prodotto sicuro, insomma, come i cartoni animati, che coinvolgono le grosse sale, diciamo, le grosse realtà aziendali, invece, ecco, in questo caso da un lato potrebbero aiutare eventuale sostegno pubblico, dall'altro abbiamo avuto anche una presentazione di una società europea che fa parte del programma dell'Unione Europea Media, che si propone proprio di offrire film di repertorio, quindi classici del cinema, o quelle pellicole che, non arrivando nei singoli mercati, un po' per problemi, insomma, distributivi, un po' anche forse alle volte per miopia, diciamo che loro potrebbero in qualche modo fare da tramite e portarli nei singoli mercati con una richiesta diretta da parte degli esercenti. Questa per ora è un progetto, però speriamo che prenda piede. Sì, mi sembra interessante. Mario, allora in bocca al lupo per buon proseguimento per questo finale degli incontri. Io chiudo, scusami, dicendo solo un'ultima cosa. Ieri sera c'è stata per la decima volta l'attribuzione dei premi del pubblico, quello che tra dalla nostra rivista Vivi il Cinema, ma anche nelle sale direttamente sul sito della FICE, votano i film della stagione. Hanno vinto un film che, insomma, vabbè, chiaramente è grande pubblico, però allo stesso tempo grande qualità, Clint Eastwood come film in generale, e come film italiano, battendo per un soffio Vincere di Bellocchio, ha vinto invece Si può fare di Giulio Manfredonia. Grande emozione tra Giovanna Mezzogiorno, Antonio Albanese e Francesca Artibugio. Abbiamo premiato un artista palestinese che amiamo tantissimo, che Iyam Abbas, protagonista dell'Ospite in attesa del Giardino dei Limoni, insomma, un tocco internazionale, però all'insegna sempre della qualità. Bene, bene, bene. Allora, un abbraccio e a presto. Grazie a tutti voi. Ciao. Mario Mazzetti, segretario nazionale della FICE, per quanto riguarda la nona edizione degli incontri del cinema d'essai a Mantova, 6-8 ottobre. Un altro festival questa volta a Torino, un attimo di pazienza. Gaetano Capizzi, direttore della 12ª edizione di Cinema Ambiente Environmental Film Festival a Torino dall'8 al 13 ottobre, ben trovato. Grazie, buongiorno. Come va? Bene, siamo in partenza. Siamo in partenza. Inizia il festival. Sì. Allora, 12ª edizione, come ci siamo sviluppati? Dici un po'. Appunto, 12 anni sono lunghi, sono tanti, sono cambiate molte cose sia nella struttura del nostro festival che nella società in generale, perché appunto 12 anni fa non c'era questa sensibilità nelle persone, nei cittadini rispetto ai temi ambientali, e invece è cresciuta molto, e insieme a questa sensibilità è cresciuto il cinema che la rappresenta, e di conseguenza anche il nostro festival. Speriamo che, insomma, è sempre cresciuto negli anni, che anche quest'anno ottenga dei buoni risultati di pubblico e di critica. Senti, come è organizzato il festival? Intanto anche vorrei sapere anche la mole di opere che presenterete. Quest'anno abbiamo visionato circa 1000 film, per sceglierne 116 che sono presenti al festival. Sì. E arrivano da 27 nazioni del mondo, è un festival internazionale, saranno presenti i registi che accompagnano i film, e ci sono dei concorsi con le giurie, tutto quello che bisogna fare per un festival, e delle sezioni tematiche, dei focus che vanno a scandagliare vari aspetti della problematica ambientale, oltre a una parte che ormai è storica, che è dedicata alle scuole, ai ragazzi. Tutte le mattine appunto ci saranno film per i più piccoli, sempre a tematica ambientale. Si mm-hmm. tratta la maggior parte di documentari, ma abbiamo anche film di animazione, fiction, insomma, un po' tutti i generi, l'importante è che trattino temi ambientali. Mm-hmm. Quali sono gli argomenti più trattati a quello che hai avuto modo di vedere? No, guarda, noi scegliamo i film non tanto in base all'argomento, ma in base alla qualità cinematografica. Sì, no? Sì, sì. Per cui gli argomenti vengono un po' di conseguenza. Sono sempre sorprendenti, ecco, quest'anno ci sono dei film che parlano dei cambiamenti climatici, che è uno dei temi più affrontati, una delle preoccupazioni più grosse. Sì. Ma anche film sul tema dell'energia, del risparmio energetico, delle fonti fossili, delle fonti alternative. C'è un bel film sull'uso sconsiderato che si fa della plastica nella nostra società. Ma affrontiamo anche i temi di attualità come la crisi economica mondiale e i legami che ha con l'ambiente, perché sono stretti, diciamo. Mm-hmm. La scarsità delle fonti energetiche, il consumo del territorio, del suolo, che è un argomento che drammaticamente è tornato all'attualità in questi giorni in Italia con l'alluvione che c'è stata in Sicilia, mm-hmm. i rifiuti tossici, per cui sono tanti gli argomenti che compongono questo tema che riguardano l'ambiente, e ecco, i film rispecchiano un po' queste vari punti di vista, il problema dell'acqua, dei rifiuti a Napoli. C'è un bel film con Ascanio Celestini protagonista, che spiega a modo suo qual è il problema, insomma, mm-hmm. perché si è verificato questa cosa in Italia. Mm-hmm. Mm. Gaetano, volevo anche chiederti a questo punto se ti è rimasto impresso qualche titolo invece che propone esempi virtuosi di come si è affrontato un problema ambientale. Ecco, possiamo dire che, diciamo, la nuova tendenza del cinema ambientale, che è diventato quasi un genere cinematografico, ormai almeno un filone cinematografico, e i film moderni, quelli degli ultimi anni, denunciano senz'altro i problemi, ma propongono quasi tutti delle soluzioni. Il che mi sembra molto positivo, insomma. Sì, perché poi non esci dalla sala cinematografica con la depressione, sì, dicendo sì, è tutto sì. un disastro, cosa posso fare?